Non possiamo fare queste figure. Questi signori sono quelli che ci fanno vivere perché ci danno i soldi come sponsor. Mi hanno appena detto a tavola che se giocate così non ce li danno più. Allora li chiedo a voi dopo. Meglio, non ve li do. Mi dovete far causa. Sapete quanto dura un processo civile in Italia? 8 anni. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Binda in redazione. Temi del venerdì sono molti, sui quali cominciamo a interrogare gli ascoltatori, io e il mio amico Pardo. Ciao Pierluigi. Ciao, come va? Troppo facile fare dell'ironia, anche un po' blasfema, sulla visita del Milan al Pontefice questa mattina. Però è evidente che ci avviciniamo alla finale di Coppa Italia, più tardi parleranno gli allenatori, intanto ha già parlato Pogba e ha già parlato Bonaventura. Pogba. Dobbiamo essere molto umili, umili di sapere che queste partite non è che è la squadra più forte che va sempre a vincere. Quindi dobbiamo stare forti nella testa e sapere che questa finale, una finale si deve vincere. Milan non sono venuti qua non per lasciare la Juve vincere, quindi una partita molto difficile che non si sa chi va a vincere, però noi siamo forti con la testa e siamo forti sul campo, possiamo vincere questa partita. Poi Bonaventura. Il campo comunque è 11 contro 11 e dobbiamo cercare di giocarcela perché comunque il calcio è anche imprevedibile, è ovvio che numericamente o per le statistiche la Juve comunque è una squadra che ha ammazzato questo campionato e si è dimostrata anche fra le migliori 8 d'Europa, quindi sulla carta non c'è partita, sul campo vedremo. Beh, una bella spruzzata di banalità, la verità è che per il Milan serve un miracolo, Pardo. Sì, anche se voglio dire, per quello che è il linguaggio solitamente dei lavori, dei giocatori, già dire carta non c'è partita è un'affermazione abbastanza forte. Anche se è vera, è condivisibile, insomma, perché sulla carta non c'è partita. Così come è vero, c'è un fondo di verità nel discorso di Pogba sulla partita secca, certamente. Sulla partita secca sappiamo che insomma, spesso la partita secca può essere una livella, no, dei valori. Sì, questo è chiaro. La verità però è che in questo momento il Milan arriva con una, almeno il Milan percepito dall'esterno ha un tale livello di autostima così basso e di difficoltà così enorme che forse neanche la livella della partita secca può bastare. Sì. Però questo è quello che vediamo da fuori, poi magari in realtà stanno lavorando bene e potrebbe essere. Sì, però è chiaro la Juve che la Juve l'affronterà con c'è una favorita, c'è una favorita chiarissima in questa partita. Pier, ti riagganciamo perché non si sente bene. Spostati un attimo. Spostati un attimo, ti riagganciamo su un secondo tema che adesso lancio. Interrogo sempre gli ascoltatori. È 800240024. Poi parleremo anche di Ventura che si avvicina alla nazionale. Parleremo di Giro d'Italia. Parleremo di moto con una corsa che stiamo aspettando tutti, cioè quella del Mugello. Ma intanto continuano a Coverciano i lavori. Lavori in corso a Coverciano con il gruppone allargato di Conte e c'è Pavoletti che la sua candidatura la avanza. Sono contento veramente perché è stata una rincorsa, volevo veramente essere qui, essere presente in questo raduno e c'è stato. Quindi sono contento, penso al presente, penso a oggi, a allenarmi bene, sono sicuro che se il CT ha bisogno di un attaccante, gli piace Pavoletti, mi potrà convocare lo stesso anche se non mi ha convocato prima. Insomma, io sono qui, dice Pavoletti, e sono qui non per fare una passeggiata di salute, una sgambata di fine stagione, ma sono qui per andare agli europei. Altro tema, si pianifica il futuro da molte parti e tra poco parleremo in maniera più approfondita del futuro del Milan, ma anche di quello dell'Empoli. Intanto Mancini parla del mercato che sarà. Dispiacere di non esserci riusciti, però con la consapevolezza che la squadra ora ha una base e se noi riusciamo a mettere qualcosa dove serve. A far andare il cervello, visto che dobbiamo usarlo per fare mercato, cercare di sbagliare il meno possibile, credo che insomma ci siamo abbastanza vicini. Quanto riguarda la nazionale, Pavoletti avanza la sua candidatura, come abbiamo detto, inspiegabilmente Insigne invece ogni giorno è inserito nella lista dei ballottaggi, Pardo. Sì, inspiegabilmente, sono d'accordo con te. Cioè, se il campionato dovesse essere il campionato più, diciamo, il talento, perché il campionato direbbe anche tranquillamente Pavoletti, su Insigne secondo me c'è un insieme di elementi, un campionato di grande livello e un valore oggettivo del calciatore, una crescita importante, quindi non è l'exploit estemporaneo, sì, del giocatore, sì, insomma è un giocatore, sì, che... Sì. Che si è quindi confermato anch'io nell'arco di una stagione. Quei 30%, 40% rimango abbastanza basito, d'accordo con te. Sì, ed è una considerazione che esce ogni giorno. Allora, tra poi poco... Dipende come vuoi giocare, eh? Può essere un discorso sì, ho capito. Di tattica magari, che può essere diverso. Chiaro che il colpo. Però mi sembra che Insigne come caratteristiche sia perfetto per il gioco di Conte, detto questo, perché... in quel ruolo insomma è un giocatore che può creare superiorità numerica, fare la differenza e poi il gol non gli manca, come ha dimostrato in questa stagione. Allora, tra poco parliamo anche di un'altra squadra che sta pianificando il futuro, il Milan, che come sapete domani gioca la finale di Coppa Italia, è stato ricevuto dal Papa, ma soprattutto si parla di un nuovo allenatore. Continuano ad essere esserci grandi dubbi sul futuro societario del club. Intanto c'è Giampaolo alla finestra. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. No, i treni sono passati, e che poi magari sei un attimo in ritardo e rischi di non pigliarlo. Ma la notizia è... Cioè, qualcuno ne ha parlato, ma io sono all'oscuro, quindi c'è qualche problema. Essere accostato a quella panchina è chiaramente un onore, ma appunto poi finisce lì, perché non c'è nient'altro. Cioè, Paolo è bravo, dopo bisogna vedere se viene seguito nelle scelte, però Giampaolo è uno dei più bravi in assoluto, è un maestro. Ci sono molti gestori, bravi anche loro, sono dei tattici. Lui ha una grande strategia. Allora, erano Giampaolo ovviamente e l'incoronazione di Sua Maestà Arrigo Sacchi. Io saluto insieme a Pierluigi Pardo il presidente dell'Empoli, meravigliosa fabbrica di artigianato di allenatori e giocatori, Fabrizio Corsi, buongiorno. Sì, artigianato di campagna. Artigianato di qualità. Artigianato di qualità. Mamma, la Campania. Eccellenza italiana, diciamo, presidente. In Campania ci sono delle qualità. Non è che voglio denigrare, però qualcuno ci piace definirci così, ma noi siamo orgogliosi del fatto di appartenere a un modo di interpretare il calcio, come dite voi, artigianale, così, senza, così lontano dai riflettori, e quando ci sono i riflettori un pochino ci danno noia e magari ci creano delle difficoltà perché non siamo abituati. Intanto un'altra grande stagione come quella dell'Empoli e dirsi addio Giampaolo, che non sarà più il vostro allenatore. Banale chiederle se è l'uomo giusto per il Milan. Ma credo sia un allenatore molto preparato, che basa molto sul lavoro di campo, però sa gestire bene le partite e non ha paura nella gestione, e se c'è un bimbo di 18 anni che merita di giocare al cospetto di un giocatore più esperto, uh-huh, ha mostrato di avere il coraggio di farlo e non è stata una rivelazione però per noi, perché si sapeva, magari aveva bisogno di un ambiente che gli permettesse di fare, diciamo, cose che da altre parti magari rimane difficile, in cui c'è magari più propensione a altri valori che non al valore, diciamo, di lavoro. Intanto Pierluigi, ad Empoli continuano a produrre allenatori e giocatori. Sì, sì, ma Empoli sono bravissimi e dimostrano ovviamente di saper valorizzare è un po' il discorso che facevamo ieri a proposito del Siviglia, no? Cioè, ci sono degli ambienti dove le cose vanno meglio, dove i giocatori si rigenerano. Penso a Saponara, che è un giocatore che all'Empoli è veramente rifiorito ed è tornato su questi livelli qui. No, io volevo chiedere, siccome Giampaolo, secondo me, assieme a Di Francesco, è quello che, come diceva Sacchi, non è soltanto le tattiche, le gestioni, ma le strategie, mi permetto di imitare il maestro, cioè ha un'idea di calcio alta. Che cosa pensano i presidenti di questo tipo di approccio? Perché insomma è chiaro che l'Empoli, il Sassuolo hanno avuto una forza, no? Sono provinciali di nome, ma sono squadre che giocano invece un calcio che è tutt'altro che provinciale. Se questo è un input che arriva dall'alto, se da parte dei presidenti in certi momenti questo tipo di approccio può essere vissuto come un rischio. Mi sembra che Giampaolo dopo Sarri sia la risposta migliore, no, presidente? Certo. Sì, ma diciamo che questo è un modo di interpretare il calcio che abbiamo messo a punto con Sarri, il cui conoscenze, perché viene da conoscenze molto importanti, cioè di lavoro, di approfondimenti, e lui ha messo insieme qualche concetto delle sue esperienze e è venuto fuori questa idea di calcio che io reputo che potrebbe così riproporsi anche come una scuola, anche se poi di fatto non vedo proprio allenatori in CMB che ne hanno fatto, sono sì, completamente sua al momento. E noi siamo, come dire, vittime di quella situazione lì. Giampaolo ha sposato questa filosofia e ha messo a disposizione le sue conoscenze, che vengono anche da altri, diciamo, idee di gioco, è venuto fuori, diciamo, sì, una bella cosa. Io credo che l'Empoli avrebbe meritato 10 punti di più in classifica per quello che ha espresso. Non mi voglio dilungare sui motivi, però qualche volta abbiamo perso fuori casa, in casa, insomma abbiamo fatto tremare fino al 95esimo, diciamo, anche il pubblico di stadi importanti. Questo è un motivo d'orgoglio, però dovendo pensare al futuro, a noi piace riproporre quel calcio lì di Sarri in maniera integrale. Quindi è il profilo di allenatore che andrete a cercare? È quello che va in quella direzione lì, perché sinceramente quando le dico che in Serie B e in Serie C ci sono degli allenatori che secondo me hanno talento, hanno delle idee, diciamo, innovative, e mi auguro che nel tempo prendano, diciamo, a breve spazio anche nelle massime campionate, perché poi le proposte ultimamente a livello di Serie A sono state veramente così scarse, non convincenti. Si è impoverito questo campionato, ecco, non si può dar colpa solamente ai dirigenti che hanno portato metà stranieri, che sono roba da ridere, e questa è la migliore espressione che posso dire, togliendo tanto spazio a giocatori importanti che sono in Serie B. E noi si fa l'esatto contrario di quello che fanno in Belgio e in Spagna, tanto per dire, in cui si usa fare i giocatori in casa, e non credo che a noi ci manchi il talento rispetto a queste, diciamo, sì, realtà di livello internazionale. Belgio è il primo, la Spagna è terza, non so, quarta. Si tratta anche di trovare l'ambiente ideale in cui poter avere lo spazio e il tempo per fare queste scelte. A Empoli, diciamo, sì, è troppo facile in questo senso, perché abbiamo una cultura, parto dell'ambiente, orientata a vedere giocatori così crescere, a vederli sbagliare, poi risbagliare, magari dall'altra parte non è concesso. Però in generale, insomma, noi ora si va in una direzione così, che ci ha regalato soddisfazione, ecco. Non so se poi credo ci porti vantaggio avere una base di gioco che, rimanendo, va via diversi giocatori importanti, sarà un problema, rimarrà, come dice spesso, uno zoccolo che ha dei meccanismi codificati da anni, e credo ci possa portare vantaggio. Senta, io lo chiedo un'ultima cosa, poi lascio l'ultima domanda a Pardo. È sorpreso del campionato che ha fatto Sarri, e fosse De Laurentiis, cambierebbe questa formula contrattuale un po' bizzarra, un allenatore così? Sarri ha confermato di essere un maestro, e dopo 10 giorni è entrato nella testa di calciatori importanti, di campioni, e questo era l'aspetto più difficile, però l'ha conquistato subito. Poi insomma, passando sul passaggio del dire trequartista o non trequartista, poi ha virato dopo 2 domeniche, 3 domeniche verso i 3 attaccanti, però l'idea di gioco è quella, i movimenti sono quasi gli stessi, c'è una mezzala che si allunga che va a fare il trequartista, un attaccante esterno che entra dentro a palleggiare insieme agli altri attaccanti, insomma, e poi la partenza da dietro, il movimento centrocampista, insomma, l'idea di gioco è quella. E direi che Aurelio, insomma, è abituato a fare dei contratti un po' così bizzarri, proprio con i diritti d'immagine, insomma, ci vuole un po' di tempo per arrivare, insomma, a volte a metterli a punto, del tutto personale. Calcio italiano quest'anno, dice Sarri, dice Paolo Sosa, come idea di gioco, e poi ha confermato il valore di Spalletti perché ha ribaltato una situazione dal punto di vista tecnico-tattico e anche, diciamo così, fisico, perché diciamo completamente fisico, per cui insomma poi ho dovuto fare anche il dirigente, insomma, poi ovviamente la Juventus è una spanna sopra tutti per organizzazione, per mentalità, per calciatori, per organico, certo, e anche per potenza economica. C'è Giuseppe Interista che scrive: la più bella partita del campionato è stata Bologna-Empoli, l'Empoli ha giocato un calcio spettacolare. Lascio la chiusura a Pardo se ha ancora qualcosa da chiedere. Sì, al presidente, no, adesso il Sassuolo ovviamente spera di prendersi un posto in Europa League, le chiedo quanto è distante il salto per società, l'Empoli ha giocato anche in Europa, ma insomma quanto si può sognare, quanto è distante, quanto rischia di diventare invece addirittura una trappola per un club comunque medio piccolo, questo tipo di vertigine dell'Europa, e soprattutto quanto è difficile riuscire a raggiungerla, cioè che progetti ci possono essere di crescita dell'Empoli, lei se lo dà un limite dimensionale della sua squadra? Solo no, è una realtà di provincia, ma è una grande società, una società che vende giocatori a 20 milioni ma poi li compra anche a 7-8 milioni, per cui fa degli investimenti mirati soprattutto sugli italiani, quindi è un modello, però è una grande società, cioè non è paragonabile all'Empoli. Lì ci sarà la Coppa UEFA, un allenatore che è bravo, che incide molto col lavoro durante la settimana sulla crescita della squadra, è un'esperienza nuova perché poi giochi il giovedì e poi ti arriva la domenica. Credo che abbiano le risorse come società per fare una rosa che gli permetta di assorbire questo doppio impegno settimanale, che non è semplice. Ecco, noi l'abbiamo fatto una volta, non avevamo quella struttura lì di calciatori ma, o di rosa, insomma, ma stranamente, non tanto stranamente, siamo retrocessi e ci avevamo Giovinco, Marchisio, Vasi, Antonini, Vannucchi. Non eravamo una squadra scarsa, però probabilmente noi nell'esperienza lì, insomma, ci siamo sentiti bravi anche perché quando vai in Coppa UEFA una realtà come la nostra, insomma, certo. E ora cercheremo di far tesoro di quegli errori, ecco. Però l'Empoli è un'altra cosa, noi oggi abbiamo una squadra secondo me da 55 punti e ora costruiremo una squadra da 38, perché speriamo di costruirla da 38, perché poi noi giocatori non siamo in grado di reggerli, perché da altre parti guadagnano del triplo, il quadro, poi giustamente hanno l'ambizione di fare carriera, una cosa conosciuta da noi, dal nostro ambiente, quindi poi dovremo riandare a difendere, certo, per sì, ma come di serie B, la politica. Di serie B, e quindi punto interrogativo, diciamo, è veramente così adeguato alla situazione. L'anno scorso siamo ripartiti in questo momento nella stessa maniera, avevamo perso 5 giocatori importanti, però sapevamo di riconfermare Saponara, che nel giorno di turno è stato un mattatore, e poi Zielinski, il presidente Puzzo, mi aveva detto che ci avevamo visto che avrebbe abbondantemente potuto sostituire Vesino. Insomma, quest'anno la missione è più difficile. A ricostruire. Grazie presidente, in bocca al lupo. Grazie davvero, complimenti. 800240024 per intervenire, ci fermiamo un attimo per la borsa, torniamo. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. vedendo intanto le immagini della udienza di Juventus e Milan dal Pontefice. Due ascoltatori e poi partiamo con l'audio forum. Samuel, buongiorno. Buongiorno Carlo. Buongiorno, dica. Grazie per la convocazione. A lei, dica. Niente, io volevo parlare dei Milan perché sono milanista da quando sono in Italia. Sì. E ho sentito che delle volte ci sono tifosi che contestano il signor Berlusconi, dimenticando belle cose che ha fatto. E delle volte anche nella vita uno si trova in difficoltà, sta passando queste cose qui in Milan questi giorni. Devono capire. Anche ho sentito delle volte che voi parlate bene delle Premier League. Premier League e contestazione per i proprietari sono sempre rare. Sì, però Samuel, vede, è molto difficile, dopo aver mangiato caviale e champagne per molti anni, adeguarsi a mettere insieme il pranzo con la cena. Io credo che il problema principale sia quello di trovare una direzione e un progetto di crescita. Sì, e poi si giudica sempre il presente. Io, certo. Io sono d'accordissimo. Io penso che Berlusconi sia stato presidente leggendario, non credo che ci possano essere distinzioni. Dipende sempre dall'obiettivo, no? Dell'obiettivo proprio fotografico con il quale si vede, si fa un'analisi. Se la si valuta nell'ultimo periodo, certamente ci sono mille cose che non vanno. Se poi si farà una valutazione storica sull'era Berlusconi al Milan, poi rimarranno i trofei, che sono tantissimi, e rimarrà la leggenda, perché di questo stiamo parlando. Così come io mi ricordo aver sempre detto che se c'è un tifoso negli ultimi 30 anni non si può lamentare, è il tifoso del Milan. Il Milan, naturalmente. Credo che quasi tutti gli altri, forse quelli della Juve degli ultimi anni, potrebbero non fare a cambio, ma complessivamente credo che non ci sia un altro tifoso in Italia che non farebbe a cambio con quello che ha vissuto negli ultimi 30 anni il tifoso del Milan. Quindi è chiaro che stiamo parlando. Però hai ragione, si fanno i conti con, poi alla fine si fanno i conti con il presente, certo, no, Pierluigi, si fanno i conti con il presente. Alla fine di ricordi non si può mica sempre campare. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie di avermi ricontattato. Sì, sono anch'io tifoso del Milan. Ho 40 anni, chiamo da Perugia. Ricordavo in questi giorni che la prima partita che io vidi del Milan dal vivo fu proprio a Perugia, in un Milan che era retrocesso da poco in Serie D per via del calcio scommesse, quindi uno dei punti più bassi del Milan. Io non ho paura tanto dell'eventuale sconfitta di domani sera, non è quello che mi fa più pensare, quanto la mancanza di progettazione, non tanto calcistica, perché ci possono essere scelte sbagliate, quanto di azienda Milan. Sì, certo, incertezza sul futuro, certo. Ecco, perché io, avendo in Italia l'esempio della Juve, avrei seguito o comunque tentato di seguire la progettazione Juventus. Mica facile. Quindi, non è facile, però... Non facilissimo, è anche una questione di denari che adesso entrano abbondantemente nelle casse della Juventus, però la Juventus ha avuto modo di seguire questo corso con grande precisione. Io saluto Maurizio Crosetti che per Repubblica sta raccontando storie meravigliose dai luoghi del Giro d'Italia. Ciao Maurizio. Eccoci, beh, grazie. Ciao. I miei omaggi. Ti stai divertendo, no? Immagino. Da morire, è una libidine giornalistica e umana, una cosa del genere, perché che l'Italia sia bella, che il Giro sia bello, ma che la geografia del Giro e dell'Italia offrano occasioni di incontro, di racconto con storie di un'Italia non tanto visibile qualche volta, generosa, vera, piena di energia, alla fine il paese che salva quell'altro che prova invece a farsi del male, è anche un conforto, se ne esce anche un pochino più ottimisti, proprio sulle sorti di un posto bellissimo, ma qualche volta un po' mal frequentato dagli italiani stessi. E quindi lei è più ottimista di 15 giorni fa, lo diciamo per i pochi che non lo sapessero, tutti i giorni praticamente fai una... racconti il negativo, no? Nel senso dell'altra faccia dell'Italia attraverso il Giro, raccontando una serie di storie belle, brutte, stimolanti o invece che portano alla rassegnazione, ma insomma racconti pezzi di storia d'Italia che corre parallelamente al Giro. Sei più ottimista riguardo all'iniziato di 15 giorni fa? Sì, ma in realtà ogni giorno di più, ma anche perché la ricerca delle storie è stata fatta proprio andando a cercare l'invisibile, però pieno di energia, passando davvero dalla transumanza dei pastori in Molise ai ragazzi che progettano videogiochi a Benevento, l'azienda che inventa apparecchi per i ciechi vicino a Padova e oggi non ve lo dico perché è una sorpresa, quindi ogni giorno si scopre quello che si sospettava, che per fortuna invece è una conferma continua, cioè che davvero abbiamo una base fortissima che non viene probabilmente molto aiutata dalle istituzioni. Il famoso paese reale è questo, ed è molto, dobbiamo crederci, perché altrimenti vediamo solo una piccola parte, quella che anche noi giornalisti qualche volta colpevolmente focalizziamo, no? L'Italia delle brutte notizie, è piena l'Italia di brutte cose, ma è anche piena dell'energia che ci permette di sopportarle. E devo dire, scusa, poi adesso parlate di biciclette tranquillamente, parliamo di biciclette. No, parliamo di pallone e trasciniamo Crosetti sul prosaico. Però io penso che questa cosa che hai detto è fondamentale, in qualche modo si riaffaccia e si riallaccia al discorso che abbiamo fatto sulle Olimpiadi, che ovviamente non è che siano per forza, non è che bisogna essere per forza favorevoli, e io non ho certezze sul fatto che siano per forza un'opportunità e una cosa giusta da fare, però in qualche modo si legano al percepito di un paese che è pieno di grandi storie, di belle storie, però è strisciante, un po' perché i problemi sono tanti, perché la corruzione in Italia è stata tanta, probabilmente lo è ancora, quindi non si fa peccato e spesso ci si azzecca a pensare male, però ecco, proprio questo tipo di filosofia che secondo me purtroppo spesso diventa prevalente, no? Perché poi ci porta alla rassegnazione, ci porta a pensare che sia tutto sbagliato, invece anch'io senza aver fatto le storie, aver raccontato le storie di Crosetti nel girare d'Italia, vedo veramente tanta bella gente, tanta gente piena di talento, tanta gente che collabora e che poi vive in una maniera secondo me migliore di come poi invece siamo terribilmente leggi sui social network dalla mattina alla sera, certo, o sui giornali o in televisione. Questo non toglie che i problemi ci siano, terribilmente poveri di autostima, tra le altre cose. Un'Italia che crea idee, che si inventa delle risorse, che cerca un'altra strada possibile, smettendola di piangersi addosso, di essere solo frustrata, di essere quell'enorme sfogatoio che qualche volta frequento anch'io tangenzialmente, dei social, come se fosse quella l'energia. Quella è tutta energia negativa che porta a parlare male, a vedere quel che non funziona, a mettere in piazza le proprie frustrazioni, no? Invece ci sono un sacco di giovani, tra l'altro, per fortuna, che non sono soltanto i principali frequentatori dei network, senza dei social, senza demonizzare questi, ma che sono poi alla fine proprio il motore di queste idee che esistono e che si possono qualche volta anche costruire quasi dal nulla, e non solo loro, peraltro, perché sto vedendo anche questo, che c'è uno scambio generazionale contro anche molte divisioni, molte barriere, molte classificazioni fatte a tavolino, no? Per cui se sei giovane hai una certa energia, se sei vecchio hai un'altra. C'è tutta una classe dai 50 ai 60 che sto incontrando oggi nella sanità, e non vi dico di più, ieri anche in qualche modo questi inventori degli apparecchi per i ciechi, la storia di oggi è incredibile, c'è un imprenditore di 58 anni, cieco dall'età di 16, che invece di finire ai margini della disperazione e della società, ha creato ormai da 30 anni un'azienda che ha inventato i tablet, gli iPhone, gli smartphone, i video ingranditori, gli occhi per i ciechi, gli apparecchietti che servono ai malati di SLA per scrivere con gli occhi. Io ho provato ieri uno di questi apparecchietti e vi confesso che è stata una delle emozioni più forti, non solo da quando faccio il giornalista. Quindi vuol dire che quell'Italia lì c'è ed è quella che ci conforta, ecco. Senti Maurizio, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico, poi 5 minuti per andare invece, come ho detto prima, sul prosaico con alcuni dei temi settimanali. Tutti convocati. Allora, un paio di temi per Maurizio Crosetti, oltre che ovviamente per Pardo. Nazionale, Conte sta facendo il suo stage, però finalmente dovremmo avere un nuovo Papa. Abemus Papa, dovrebbe chiamarsi Ventura. Tavecchio ne ha parlato, ovviamente, senza nulla confermare. Mi dispiace usare un termine spagnolo, ma regge bene questa cantera di allenatori che sarà automatica poi per fare i ricambi naturali, e poi ci sarà un tecnico della nazionale che a tutti gli effetti e con autonomia e con assoluta competenza gestirà la prima squadra. Non posso dire nomi finché ho firmato niente, io i nomi li dite voi. Sapevamo perfettamente che il contratto durava 2 anni, abbiamo fatto un contratto quadriennale con la Puma sapendo che l'impegno di Conte era biennale. Vabbè, al di là degli sponsor, Ventura CT, accanto a lui Cannavaro e Lippi, direttore tecnico. Funziona, Cross? Io sono un po' di parte, conosco da tanti anni Giampiero Ventura, posso anche dire che sia un mio amico, anche se questo non c'entra nulla nell'analisi, ma so che lui ha lavorato tanto, bene, ovunque, sui giovani e sui meno giovani, sulla materia calcio, è un maestro di calcio vero, è una persona che ha costruito nel tempo anche il giusto spessore della propria pelle, e arriva in nazionale, sono molto contento per lui e anche per la nazionale, in un momento in cui a volte si tende anche ad inventare l'allenatore senza gavetta, come se fosse così immediato, automatico, saper di calcio, saperlo fare. Arriva però anche in un momento in cui certo il nostro calcio non esprime, come dire, una pirotecnia di talento e un ottimismo spaventoso per il futuro. Le prossime qualificazioni mondiali sono a rischio anche di successo, bisogna pur dirlo, per la prima volta dopo tanti anni. Però se c'è una persona che ha le spalle larghe e le idee chiare, il mestiere e anche il tratto umano per reggere a questo impatto, è proprio Giampiero Ventura, a quale auguro un ottimo lavoro, convinto che saprà farlo, anche se poi alla fine purtroppo l'unico ottimo lavoro per un allenatore sono i risultati, e questo è sbagliato perché così in prospettiva si costruisce poco, ma se non vinci nazionale prendetene, vai. Certo, Pierluigi, però siamo al maestro di calcio e non quindi una idea filosoficamente diversa rispetto a quella del gestore, del selezionatore. Tu Guarda, io condivido tutto quello che ha detto Maurizio, nel senso che la stima e la simpatia, anche se ovviamente conta poco per la persona oltre che per l'allenatore, è totale. L'unico dubbio, ma insomma mi auguro ovviamente che non sia rilevante, è che mi sembra uno molto allenatore, cioè uno che ha bisogno, proprio perché ha un'idea di calcio alta e certe volte forse anche un po' complicata, cioè un po' personale, un po' originale, ha bisogno di tempo nel lavoro con i giocatori. Insomma, ci sono delle cose che sono veramente di Ventura, dal retropassaggio verso il portiere per aprire la squadra avversaria, la prima cosa che viene in mente, no? Ci sono delle cose che fa soltanto lui, o comunque che fanno in pochi. Quindi da questo punto di vista è chiaro che è un tipo di modello che ha bisogno, secondo me, di un po' di tempo, un po' di applicazione, e l'unico dubbio è che purtroppo in nazionale c'è il tempo, ce n'è pochissimo. Però in generale, insomma, sicuramente è un maestro di calcio, non ci sono discussioni. E sono d'accordo soprattutto sulla cosa che diceva Maurizio, che negli ultimi anni è cresciuto tanto, certo, secondo me, dal punto di vista proprio anche della personalità, dell'abitudine a confrontarsi con situazioni diverse. Quindi è una scelta che mi lascia assolutamente positivo. Ho solo quel dubbio lì, proprio perché non prendi un assemblatore, non prendi uno, ma prendi un allenatore vero. Significa fargli un grande complimento, però temo che abbia poco tempo a disposizione, tutto qui. Maurizio, un'ultima cosa, Conte finalmente si è tolto la scimmia giudiziaria dalla spalla, adesso sta lavorando con il suo mega plotone allargato, e tutto bene? Tutto bene così? Tutti contenti? Tutti soddisfatti? Va talmente tutto male che potrebbe andare anche tutto benissimo, perché siamo un popolo non solo in nazionale, riprendendo il discorso iniziale, che trova le risorse migliori nell'emergenza e laddove non si immaginerebbe che ci fossero, vale per la società, qualche volta anche per il calcio, che è comunque sempre un modo per fare uno zoom, no? Per pinciare, come si dice oggi, sulla realtà, per ingrandirla come se la realtà fosse letta sull'iPad. Ed ecco che allora chissà che il calcio non ci dica proprio con la nazionale che non siamo proprio così sgangherati come sembriamo. Di sicuro, certo, non tutto a posto, perché se ti riferisci al processo e alle calcio scommesse, quella è una realtà che è esistita e che esiste ancora, non parlo ovviamente di Conte, ma di un malcostume che riguarda soprattutto i campionati minori, no, inferiori, insomma, le serie dalla terza serie in giù, insomma, no? E quindi lì c'è ancora tanto da lavorare. Gli inquirenti sono convinti che non si sia smesso di scommettere solo perché non c'entrava, per fortuna, il CT. Buonissimo lavoro a lui. Certamente non mollerà di un millimetro solo perché è a termine, è a termine ma non è terminato, conosce Antonio, lo sa, e quindi si farà tutto il massimo che si potrà fare per un calcio che di ombre ne ha ancora tante e non possono essere dissipate né da una sentenza né da una lettura frettolosa della realtà. Sul nostro calcio bisogna lavorare ancora tanto, ma togliendosi possibilmente di dosso questo pessimismo, questa lamentela continua, come se fossimo diventati il retroguardia dell'universo. Siamo comunque l'espressione di uno dei movimenti calcistici più importanti della storia che non è diventato una banda di incapaci solo perché abbiamo un po' di crisi di talento, perché la vendemmia delle ultime stagioni è stata, ha prodotto dell'uva un pochino meno, come dire, ad alta gradazione, no? Però si può fare del buon vino anche quando l'uva non è strepitosa, anche quando la stagione non è stata delle migliori, e Conte e rimane ancora adesso uno dei migliori vignaioli che abbiamo. Fantasia e coraggio. Buon lavoro fantasia. A Conte. Buon lavoro a Conte, posso dire, buon lavoro a Conte, buon lavoro ai magistrati, perché chiaramente fanno un lavoro importante, delicato, e devono scoprire tante cose che non funzionano, e buon lavoro anche a noi giornalisti, che secondo me, perché questo poi è inevitabilmente il rovescio della medaglia di storie come questa, quando c'è poi una soluzione, e poi se ti metti un attimo nei panni della persona che è stata assolta e che per anni si è visto sbattuto in prima pagina, colpevolizzato e trattato, no, nella percezione popolare come un colpevole, ecco, io credo che in questo, e lo dico da giornalista, quindi la persona si rende conto di avere questa responsabilità nell'utilizzo degli aggettivi, nell'utilizzo di quello che dice e che scrive, ci vuole da parte nostra una grandissima attenzione, perché comunque alla fine stiamo parlando delle vite delle persone, quindi certo, da un lato ma è una distorsione del nostro sistema che è difficilmente eliminabile, questa. Lo so, però ma secondo me è giusto sottolinearlo, che certamente non riguarda solo il calcio, ma riguarda ma è ogni giusto sottolinearlo, versante però, della vita. Grazie Maurizio, buon viaggio, grazie, buon lavoro, ci tutti. Seguiamo, grazie, ci ciao. Seguiamo ciao. Io ciao. Saluto e ringrazio anche Pierluigi Pardo, avevo altre domande, allenatori vecchi e nuovi, Montella che resta alla Sampdoria, Iachini che va all'Udinese, Mihajlovic che ha risolto il contratto con il Milan, insieme a Lombardo andrà ad allenare il Torino. In un secondo, Mihajlovic al Toro, come lo vedi? Lo vedo bene, mi sembra un allenatore del Toro. Io penso che Mihajlovic abbia dimostrato sicuramente in questi anni di essere un allenatore capace di motivare la squadra. Secondo me è mancato quest'anno, e il fatto che Brocchi stia facendo bene fin qui non vuol dire che Mihajlovic abbia fatto bene. Secondo me il Milan è al di sotto di quello che poteva fare, e quindi le responsabilità sono tecniche, partendo dal presupposto che chiaramente non è una squadra da Scudetto e neanche da Champions League, ma insomma che abbia fatto meno punti non ci sono dubbi, e non è che siccome adesso fa male Brocchi improvvisamente Mihajlovic ha fatto bene. Sì, però sì, mi sembra molto adatto, perché nell'esperienza con la Samp lui ha mostrato questa, cioè, mi sembra un allenatore da lotta più che da governo. Esatto. Quindi il Torino mi sembra che insomma incarna anche proprio culturalmente quel tipo di valori, una collocazione ideale per Sinisa Mihajlovic. Sì. Grazie Pierluigi, a domani. Ciao. Anzi, ciao, non a domani, ciao, ma ciao. Domenica. Grazie domenica, Pierluigi, ciao. Pardo, GR. Poi torniamo con, ve lo dico subito, Iannone più veloce nel secondo è Libera, al Mugello, secondo Lorenzo, terzo Pirro, sesto Rossi. E poi con il andremo anche sul Giro d'Italia, dove c'è stata una caduta di Visconti sul primo Gran Premio della Montagna, di una tappa molto molto interessante. A dopo. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Si ricomincia. Tutti convocati. E si ricomincia, e tra poco ne parliamo, da una grande Ducati al primo giorno del Mugello, ma si ricomincia anche e soprattutto con gli ascoltatori in linea 800 24 00 24. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie della convocazione. Grazie a lei. Due domande veloci. La prima, Crotone in Serie A, secondo voi lo titolo gli piglierà un colpo o cosa? E la seconda domanda era sulla Juve. Lo so che è fantacalcio, ma come vedete... Sulla prima non so rispondere, glielo dico subito. State rese note reazioni del vulcanico presidente della Lazio, mettiamola così. Vedremo. Niente, la domanda sulla Juve, dicevo, lo so, magari può essere fantacalcio, ma come vedete la coppia d'attacco eventualmente Dybala-Ibrahimovic? Grazie. Ibrahimovic mi sembra un profilo non adatto alla Juventus in questo momento. È una squadra che vuole, credo, seguire altre strade di ricostruzione, di gioventù, quindi non penso possa essere Ibra la soluzione ideale. Potremmo fare un altro discorso invece sul Napoli, ne parlavo prima a microfoni spenti in un acceso dibattito con il mio amico Giorgio De Luca. E dicevo, ok, Koulibaly è circuito dal Chelsea, vediamo quanto il Chelsea, sappiamo che li pagano tanto, è disposto a scucire per questo giocatore. Dovesse andare via Higuain, sempre per una montagna di soldi, perché non una stagione di Zlatan Ibrahimovic? Forse troppa fantasia, forse Sarri non sarà d'accordo, forse fantacalcio, anzi certamente fantacalcio, però la buttiamo lì. Intanto io saluto e ringrazio il mio amico Roberto Ungaro, The Voice del Moto Mondiale. Ciao Roberto. Ciao Carlo, un saluto. Ciao a tutti. Ciao. Innanzitutto fammi dire che per quelli che non avranno la possibilità di andare al Mugello domenica, c'è un'altra grande idea di un luogo per motociclisti veri dove seguire la corsa. Dove? Beh sì, Bread and Salam, un vero picnic. Bread and Salam, attenzione. Pane e salam, edizione numero? Siamo così, è la sesta edizione. Siamo sul tetto del mondo dell'Oltrepò, a Cecima, a Cadelmonte per l'esattezza. È un vero picnic, un raduno di moto, e lì ci sarà un maxi schermo e vedremo in diretta quello spettacolo che sarà il Mugello che tutti quanti attendiamo. Quindi la tirata lucido è un appuntamento immancabile, tutti quanti, ognuno farà la sua telecronaca, sarà veramente il bar sport all'apoteosi. Con un sacco di moto, con un sacco di moto anche tra le più creative, tra le più strane, come d'abitudine, quindi sì, appuntamento sì, da non perdere, che penso sia il posto migliore per vedere la corsa del Mugello, che non sia ovviamente quel circuito. Per quanto riguarda invece ciò che è successo su quel circuito oggi, allora, ti faccio sentire prima Ciabatti, che ieri è intervenuto da noi, ovviamente il gran capo della Ducati Corse. Sentiamo cosa ha detto sulla gara. L'anno scorso proprio Iannone e Dovizioso sono partiti in prima fila, e Iannone aveva fatto la pole position e ha finito secondo a 5 secondi da Lorenzo. Dovi purtroppo ha avuto un problema alla corona e quindi della sua moto, e si è dovuto fermare. Io, per noi è una gara particolarmente importante, abbiamo tantissimi tifosi, abbiamo la tribuna Ducati al Correntaio con quasi 2500 appassionati, e quindi cercheremo di fare ovviamente un gran risultato. Poi qual è il gran risultato? Io vorrei far meglio dell'anno scorso, l'anno scorso siamo arrivati secondi, quindi fate un po' voi. E il primo giorno male non è andato, Roberto Ungaro? Assolutamente no. E comunque dopo Milano, Mugello è la pista Ducati, la pista di casa dove provano tanto, spesso, quindi è logico anche aspettarsi un risultato. E se l'anno scorso quel podio di Iannone è stato un fuoco di paglia, quest'anno invece abbiamo visto che Ducati è sempre stata lì, costante, ha avuto, si può dire, tanta sfiga, e il risultato non è arrivato per quello. Quindi se lo merita, c'è da aspettarselo. E poi c'è anche da calcolare questo, Carlo, che i giochi di mercato sono stati fatti, perché Vignales è stato ufficializzato a Yamaha, Iannone Suzuki, Dovizioso confermato, quindi la squadra è fatta, liberi di testa da tutti i pensieri. C'è solo da dare gas davanti a un pubblico meraviglioso, pista tirata lucido per le grandi occasioni, quello è un fiore all'occhiello nostro. Nell'Italy che tutto il mondo ci invidia, tutti i piloti del mondo, Carlo, devi saperlo, dicono che quella è la pista più bella del mondo, se la combatte con Philip Island. Però Mugello è veramente questo catino dove tu vivi un weekend all'apoteosi, è uno spettacolo nello spettacolo anche esserci, quindi non solo vedere loro esibirsi e vedere la prestazione massima. E quindi secondo me è una bellissima gara, i tre primi nel raggio di 12 punti sono tutti lì, e c'è da aspettarsi di tutto. Un Marquez che combatterà da solo con la Honda, perché sappiamo che la Honda è dietro, Yamaha a postissimo e bilanciata, Valentino che dire, possiamo solo aspettarlo, perché lì ha fatto di tutto, è stata anche la pista dove non ha raccolto, ricordiamoci, l'unico punto nero è lì dove si fece male. E Valentino è iniziata la sua rimonta, e se fosse lì davanti al suo pubblico sarebbe per noi italiani veramente il modo migliore di continuare questo campionato. Non c'è dubbio Roberto. Intanto, a proposito del mercato piloti, a conferma delle parole di Roberto Ungaro, c'è stato anche Lorenzo che ha parlato e ha detto: volevo chiuderla presto proprio per liberarmi la testa. Questa stagione, in comparazione con gli altri anni dove abbiamo tutti dovuto rinnovare il contratto, abbiamo cominciato molto prima di lo normale, che lo normale è più o meno il Gran Premio di Catalunya, al Gran Premio della Repubblica Ceca in Brno, dove più o meno si sclarisce tutto il futuro. Quest'anno, magari per la mia parte, che ho voluto provare di rinnovare il contratto prima di cominciare il campionato, tutti i pezzi dopo che ho deciso di cambiare alla Ducati, tutti gli altri pezzi si hanno muovuto anche. Abbiamo capito, no? Mi sembra chiaro. Valentino Rossi, lui, Ovviamente Marquez che rimane, Iannone che se ne va, Dovizioso confermato alla Ducati, è già tutto scritto, tutto definito. Sì, e se vogliamo far leggere fra le righe dobbiamo andare a tradurre le parole di Lee Jarvis, il gran capo di Yamaha, che ha detto: siamo contenti di Vignales, perché questo ragazzo ce l'avevamo nel mirino da tanto tempo, l'abbiamo chiuso, e l'ho scelto, sono contento, perché ha rinunciato a un ingaggio più importante, quello di Suzuki che avevamo annunciato in anticipo noi, ti ricordi? Sì, come no. Ma sai le parole cosa sono state belle? Ha sete, ha fame, non vuole fare la star, vuole solo diventare il campione del mondo, e quindi lui ha accettato di guadagnare meno per avere la moto più competitiva. Di star ce n'è già una, molto ingombrante, che è Valentino, e quindi questa coppia insomma si dimostra abbastanza sortita. Queste sono belle parole, perché in un mondo dove tutto si brucia prima, sempre prima del previsto, tu sai che ancora prima di vincere fanno i fenomeni. Vignales invece è uno abbastanza con la testa sulle spalle, è uno che vuole dimostrare, vuole il suo obiettivo unico, è quello di vincere, tutto il resto poi verrà di conseguenza, e queste sono belle parole. Ha anche detto che ha mandato in crisi un po' tutto Lorenzo, che voleva chiudere prima del Qatar, poi Valentino ha anticipato tutto, perché l'ha giocato come sempre di sorpresa. È lui il grande regista del risico, di quei carormattini che si devono mettere un po' qui e un po' là, però alla fine Valentino detta legge anche quello, e lo certo. Sappiamo. Ti faccio sentire sempre su questo argomento, poi diamo un'occhiata alle prove e anche a un paio di messaggi che ho già ricevuto, 349-238-6666, sempre su questo argomento, prossima stagione, che mi sembra cruciale in queste prime battute, sempre Ciabatti, prima del Mugello. È vero che è stata una scelta molto difficile, infatti ci abbiamo messo un po' di tempo. E chiunque dei due avesse dovuto lasciare la Ducati alla fine di questa stagione sarebbe stato comunque un pilota a cui insomma che ci avrebbe lasciato un rimpianto, quindi così è andata. È inutile adesso parlare troppo delle ragioni, ma Iannone è un pilota velocissimo e speriamo che quest'anno, così come Dovizioso, ci riesca a dare delle belle soddisfazioni nelle prossime gare. Dunque così è, intanto per quanto riguarda oggi Iannone, non confermato dalla Ducati, è andato fortissimo davanti a tutti gli altri nella seconda sessione di libere, un ottimo Pirro che è terzo dietro a Lorenzo, quarto Alex Espargaró, quinto Marquez, sesto Valentino Rossi, molto attardato Pedrosa solo undicesimo, tredicesimo Dovizioso che ha anche problemi di dolori al collo. Ricevo questo messaggio, dimmi Roberto. Ah, ti dico, allora sai che quando un pilota si libera di testa e quindi dice ok, mi hai scaricato Ducati, parlo di Iannone, allora ce la mette veramente tutta per dimostrare che è stato un errore quello. Comunque ti devo anche dire che le sue affermazioni ieri in conferenza stampa, lui ha detto sono veramente stupito di questo. Ecco, io non sono così d'accordo, secondo me è un parlare politichese che ha imparato grazie anche al suo mentore che è Carlo Pernat, ricordiamo, grande stratega, perché uno Iannone non avrebbe mai detto quella cosa, secondo me. Cioè non poteva stupirsi che Ducati lo avrebbe scaricato dopo questo inizio di stagione, ci stava, era lì, era ovvio. E quindi diciamo che chissà, magari sta imparando a parlare, sta imparando a essere il pilota che oggi purtroppo deve essere il pilota, perché lui tutto invece istinto e irruenza. E comunque io mi aspetto, dopo il risultato dell'anno scorso, un secondo posto di Iannone, veramente una grande prestazione. Se può migliorare può solo fare un primo. Secondo me comunque se la giocherà fino alla fine. Solo un errore potrà toglierlo dal podio sicuramente, ma secondo me potrebbe anche arrivare al gradino più alto. Ho un messaggio che ti giro prima di salutarti, Roberto, è questo. Rossi, per vincere al Mugello ha bisogno che facciano una carognata come in Spagna, fornire a lui la gomma migliore e agli altri pattume da spin. No, non esageriamo. Quello che ha fatto parlare sono le guardie del corpo, se mai i piloti spagnoli. È lì che la donna ha prestato... Anche questo, altro bell'argomento. Diamo le guardie del corpo agli spagnoli, perché chissà cosa succede al Mugello. Gli spagnoli, ma non scherziamo. E Valentino cosa ha detto? Servirebbero a me che non riesco a fare due vetri, se mai, ridendo ovviamente, però è così. E ha riportato attenzione su quel fatto che ci eravamo già dimenticati, perché questo inizio di stagione, al di là delle cadute della Michelin, devo dire che comunque è stato un avvio di stagione dove non ci ha toccato quell'argomento con cui abbiamo chiuso, il biscottone, ci eravamo già dimenticati, stavamo guardando solo le prestazioni pure. E quindi la Dorna, secondo me, passo falso. Hai detto Pirro, bravissimo, lì, G, gira bendato, perché lì è dove lui fa i chilometri. Questo non deve togliergli nulla, perché è un ragazzo veloce, bravo e può far bene e deve far bene. Quindi, però lì la Ducati, ragazzi, fa l'affidabilità, sviluppa, e per una casa è tantissimo questo. Però staremo a vedere, perché poi la gara è un'altra cosa come sempre. La gara è la gara, e domenica saremo lì a godere dello spettacolo di chi taglierà per primo il traguardo. Sì, ma sai cosa? Del biscottone non è che ci siamo dimenticati. Il fatto che fino ad ora c'è ancora mancato un confronto diretto, un faccia a faccia, un uno contro uno tra i protagonisti di quella vicenda. È vero, e chissà che sarà su queste meravigliose curve, su questo catino che il mondo ci invidia. Cosa dici? Potrebbe essere questo, quindi è come se fosse stato fatto un reset e il campionato vero riparte da qua. È una pista particolare, è molto tecnica, guidata, non è una pista stop and go di accelerazione, qui la Honda non è avvantaggiata, Yamaha parte bene, Ducati, lo abbiamo detto, strafavorita perché qui è di casa, e quindi, però, per un insieme di cose, tutti quanti tre al vertice con 1-0, per uno stato mentale, per il mercato che si è chiuso, secondo me qui inizia il vero campionato. E dunque tutti collegati con il Mugello, se potete andare là andate là, se dovete stare a casa state a casa, peggio per voi, se no con Roberto Ungaro sul tetto dell'Oltrepò Pavese per Braden Salam, sacco di moto. Grazie Carlo. Ciao, grazie, vi aspetto numerosi. Ciao. Roberto Ungaro. Mario, buongiorno. 800240024 è il numero verde, dica. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Ma soprattutto grazie per la vostra educazione. Grazie. Fate una compagnia educativa. Spero che molti ragazzi vi ascoltino. Grazie mille. Io chiedevo questo. Bellissimo complimento. Sì, è una constatazione, ma è piacevole come è piacevole il ragazzino che la precede dopo. È bello a volte non sentire parolacce, ma anche quelle che si usano come intercalare. È bello che sia così. Grazie. Io ho 49 anni, non ne ho 70, comunque sì, va bene. Anche se per la verità ogni tanto qualcosa ci sfugge, Vabbè, ma sono cose simpatiche, non sono, ecco, vabbè. Io chiedevo, nel mercato della Juventus, che sembra che ci sia sempre l'idea di prendere un trequartista, è stato preso Hernanes con tutto quello che io posso voler bene ad Hernanes, ma purtroppo credo di intendermene un po' di più di calcio e non mi sembra un giocatore da Juventus. Forse da Venezia, ma no, Venezia è poco, è un buon giocatore. Venezia è un buon giocatore, sì, È un eccellente giocatore, più che altro a me non sembra, quantomeno non sembra più adatto a quel ruolo, infatti lo hanno dimostrato. Poi se è un giocatore che può essere utile in altri ruoli per allungare la rosa, io credo che possa ancora stare alla Juventus. Dica. Comunque, io chiedevo, non sarebbe interessante per la Juventus un giocatore giovane che è Vázquez del Palermo? Certo, vero sarebbe, ma mi sembra che la Juventus abbia preso altre direzioni con Pjanic, no? Che secondo me è un'altra eccellente idea. Pjanic è un giocatore che ha due piedi che lo possono portare a giocare praticamente in ogni ruolo del centrocampo, è uno che ha fiuto e dimestichezza con il gol, quindi mi sembra un tassello ideale. Poi magari non è il trequartista purissimo, però è uno che anche lì può fare il suo. Quindi se Pjanic sarà, a me pare comunque un grande inizio di mercato. Grazie Mario, io vado subito al Giro d'Italia da Pier Augusto Stagi. Ciao Pier Augusto. Ciao Carlo. Mi sembra che oggi succedano delle cose. Succederanno sicuramente oggi, domani e dopodomani, sono tre giorni che sicuramente decideranno il Giro d'Italia. Poi andremo all'ultima settimana per gli esami di riparazione, ma chi va male in questo fine settimana compromette gran parte del lavoro. Noi siamo veramente alla resa dei conti, oggi è una tappa poco conosciuta perché ci sono due salite inedite, ma molto molto dure. Parlavo con Enzo Cainaro, che è il grande artefice delle tappe rosa qui in Friuli, e sono due salite durissime, con pendenze molto aspre, accese del 16%, la temperatura è piuttosto alta, quindi inciderà anche il caldo che è esploso oggi sostanzialmente, quindi sì. I corridori non sono abituati, sì. Devono abituarsi alle grandi salite e al caldo, quindi un doppio handicap. E poi domani ricordiamoci che c'è il tappone dolomitico con ben 6 Gran Premi della montagna e 5.500 metri di dislivello. Mica paglia. E tanto per gradire, per concludere questo fine settimana, domenica una cronoscalata. Intanto leggevo oggi di una, e sentivo e vedevo oggi di una caduta di Visconti sulla prima salita. Sì, stava sprintando per un traguardo per la maglia azzurra del Gran Premio della Montagna con Damiano Cunego. Cunego, per evitare due massaggiatori, uno della Trek e un altro tecnico, è andato involontariamente a toccare Visconti, che è ruzzolato per terra. È stato medicato in corsa, ma grazie al cielo nulla di, sì, di grave. È ripartito ed è in corsa ed è lì con i migliori. E c'è la Lampre all'attacco, no? C'è la Lampre all'attacco con c'è un austriaco solo al comando, con dietro poi un gruppetto di 32. Dentro c'è Diego Lissi, che al momento è maglia rosa virtuale. Quindi Diego Lissi sta cercando in qualche maniera di portarsi avanti, perché avrebbe anche la possibilità e anche le qualità tecniche per poter cogliere oggi anche un terzo successo personale in questo Giro d'Italia. Tanto io voglio tornare un attimo a ieri e farvi risentire le fasi dell'arrivo. Attenzione a questa curva, fa spallate Greipel con Roberto Ferrari alla traiettoria esterna. Andrei Greipel è la traiettoria più veloce, è lui adesso in seconda posizione sulla con ruota di Andrei Greipel, che è sulla sua ruota, parte lo sprint. Caleb Ewan è un testa a testa tra di loro, Caleb Ewan e Andrei Greipel. Greipel che è davanti, nettamente davanti, ed è nettamente lui il trionfatore anche di questa tappa, davanti a Caleb Ewan e poi Giacomo Nizzolo, che deve accontentarsi per la quarta volta nella sua storia al Giro della terza posizione. Dunque Greipel vince, va sul podio, infila la sua bella maglia rossa, oggi la consegna, se ne va a casa ed è proprio Nizzolo la nuova maglia rossa per il ritiro di Greipel. Ma com'è sta storia? Vengono, vincono e vanno a casa. E guarda, è così, purtroppo è una cattiva abitudine che non è di oggi. I velocisti l'hanno un po' sempre fatto così, l'hanno fatto anche al Tour de France, perché ho letto, molti hanno scritto, ah, il Tour non lo permetterebbe. No. Mario Cipollini, per citarne uno, vinceva le sue due, tre, quattro tappe e poi andava al mare all'Indie Maggiore, cioè la morte di Marmi. E quest'anno, tra le altre cose, in modo particolare, proprio parlavo questa mattina con Mario Cipollini e mi spiegava che alla fine Greipel e Kittel hanno un grande obiettivo, dice, non è che non snobbano il Giro d'Italia, snobberanno anche il Tour, vedrai, andranno al Tour, faranno due o tre volate e soprattutto dovranno convincere il selezionatore tedesco su chi puntare. Al mondiale. In palio cosa c'è? Il mondiale di Doha, che è totalmente pianeggiante, e la Germania ha due pedine fondamentali, estremamente importanti e forti, come Marcel Kittel e Andrea Greipel, che bisogna scegliere su chi puntare tra i due. E quindi qua al Giro d'Italia Greipel ha vinto 3-2, ha resistito un pochino di più del giovane collega. Al Tour de France ci sarà altro scampolo di battaglia. Mario dice, sostiene, quindi riporta un'autorevole opinione, vedrai che anche al Tour lotteranno per 9 giorni, 10 giorni e poi fanno le valigie vanno a casa e pensano al mondiale. Esatto, e quindi tu sai la mia, il mio vecchio debole, certo, la mia vecchia predilezione per gli sprinter che vincono l'ultima tappa, eh. Sai che io ho sempre adorato corridori come quelli. Però vabbè, tant'è, ognuno poi fa i suoi 2, 4, 6 conti. Sentiamo più tardi naturalmente nel GR per l'arrivo di questa tappa, ci sentiamo domenica in tutti i convocati weekend. Grazie per Augusto Ostaggi. Grazie, ciao, grazie anche ovviamente a Giorgio Luca, nostro autore, a Gianmarco Ferronato in regia, a Federico Binda in redazione. Domenica, non vi abbandoniamo mai per tutta l'estate, sarete contenti, io spero. Saremo sempre qui ogni giorno in diretta dalle 14 alle 15.30 e poi sempre la domenica c'è la finale di Coppa Italia, poi c'è la finale di Champions League, poi entriamo in clima europei e poi entriamo in clima olimpiadi, e quando ci andiamo in vacanza la risposta è mai. Quindi 17-19 di domenica, ciao a tutti. Guaglio, buon pomeriggio a tutti.